11. Bucce d'arancia e tabacco masticato bersagliavano la platea come flagelli divini. Servi e lacchè, rintanati nei palchi, tenevano caldo il posto per i loro signori. In galleria, bastoni da passeggio e ventagli scheggiavano la balaustra. Qualcuno invocava gli attori, qualcun altro i principi indiani. Le due fazioni si scambiavano sputi. L'orchestra attaccò una melodia solenne, grida e sconquassi si trasformarono in canto. Il testo parlava della carne arrosto della vecchia Inghilterra e dei suoi molti vantaggi sul ragù dei francesi. Joseph scambiò un'occhiata con Philippe, senza dire nulla. Warwick aprì un varco fino alla panca centrale della prima fila, come una guida indiana su una traccia invasa dai rovi. Allontanava gli ostacoli con metodo e senza incertezze. Un saluto a destra, un pizzicotto a sinistra, il bastone puntato avanti e la pancia subito dietro. Appena i suoi ospiti furono seduti, il conte prese posto accanto a Joseph. «I nobili di Londra pensano che i posti migliori di un teatro siano quelli dei palchi. Costano più degli altri, dunque devono essere migliori. Se tutti gli ordini avessero lo stesso prezzo, nessuno di loro saprebbe dove sedersi. Dovrebbero scegliere, ponderare, esporsi all'errore. Non la qualità degli oggetti, ma il sonno della ragione genera il lusso». Ciò detto, portò la mano destra sul cuore e intonò l'ultima strofa della canzone. La musica si avvitò nelle battute finali, coperta dai fischi di chi reclamava che si alzasse il sipario. Un proiettile arancione sfiorò la guancia di Warwick e si stampò sul parapetto che proteggeva attori e musicisti dalle intemperanze della folla. «La prima fila centrale è il meglio in assoluto», sussurrò Warwick, come dettando a Joseph le sue ultime volontà. «La scena è di fronte, vicinissima, e i lanci di frutta molto di rado arrivano fin qui. Nei palchi, per seguire bene l'azione, occorre sporgersi, e chi sta in alto aspetta solo questo per rovesciare un pitale d'acqua, o anche peggio». Su quella notazione, le quinte presero a ondeggiare e l'applauso del pubblico di Drury Lane accompagnò il sipario. Il corifeo era un uomo alto, vestito con una lunga tunica di velluto e un berretto floscio. La voce stentorea superò il frastuono che andava scemando in brusio. «Due casati di pari nobiltà, nella bella Verona, dove poniamo la scena? D'antico rancore passano a nuovo scontro e mani civili si macchiano di sangue civile. Dai lombi fatali di questi due avversari nasce, sotto cattive stelle, una coppia di amanti. Il loro sventurato destino porrà fine con la morte alla faida dei genitori, gli spaventosi casi del loro segnato amore». Un urlo sguaiato piove dall'alto della platea. «Ehi, quelli sono i principi indiani!» File di colli presero a torcersi in tutte le direzioni. Il brusio tornò a salire, gli sguardi rimbalzarono dal basso in alto e poi di nuovo giù, alla ricerca dell'origine di tanto stupore, finché Joseph e Philippe non vennero individuati. I due non osavano muovere un muscolo. L'attenzione di quella gente somigliava a una minaccia. Lord Warwick trattenne un risolino compiaciuto. «Gli indiani, per Giove, gli indiani! Fateceli vedere! Vedo soltanto la testa! Vogliamo vederli in faccia! Dateci gli indiani!» Il corifeo prese a sbracciarsi e alzò ancora la voce. «Signore, signori, vi prego, siamo qui per Romeo e Giulietta! Ce li abbiamo tutti i giorni! Vogliamo gli indiani!» Un paio di mele colpirono il capo coro, che fu costretto a ripararsi dietro una quinta. Lord Warwick si alzò in piedi e batté con forza il bastone per terra. «Signori, vi prego!» Un ortaggio volante sfiorò la parrucca e lo convinse a risedersi. Guardò Joseph e scrollò le spalle. «È il prezzo della fama», disse divertito, ma l'espressione del volto mutò non appena si accorse che una banda di energumeni era scesa in platea e cercava di farsi largo. «Se non ce li fate vedere, ce li veniamo a prendere!» gridava il più esaltato e intanto calava fendenti con un bastone da passeggio. Pochi passi più avanti, un ufficiale in uniforme rossa sguainò la spada. Qualcuno gridò «Le guardie! Le guardie!» Un nanerottolo con una parrucca sproporzionata si mise in piedi su una panca, estrasse un foglio dalla tasca del panciotto e prese a leggere con foga la voce che andava in falsetto al termine di ogni frase. «È il Riot Act», spiegò Warwick, mentre fingeva di voler proteggere Philip e in realtà lo usava come scudo. «Qui in Inghilterra la libertà dell'individuo c'è così cara che le guardie non possono caricare una folla senza prima avvertirla leggendo quelle righe». Un uomo attempato, vestito con eleganza, entrò a grandi passi sul palcoscenico. Si piazzò proprio al centro della pedana e allargò le braccia, i palmi aperti. Mentre gli astanti lo riconoscevano, le voci presero a scemare. Warwick inclinò la testa verso Joseph. «L'impresario, David Garrick, è l'attore più famoso di Londra. Si è ritirato dalle scene, ma è ancora un'autorità». Ottenuto un po' di silenzio, l'uomo sorrise alla platea. «Sembra che oggi il bardo abbia trovato pane per i suoi denti. Ditemi dunque, cosa vi trattiene tutti tra i miasmi di Londra, invece di spingervi nelle terre a Verona?» Un paio di voci risposero dalle ultime file. «Vogliamo vedere gli indiani!» «Sì, Garrick! Guarda, stanno lì, in prima fila!» David Garrick individuò in platea i due gentiluomini dalla pelle ramata. Con gesto sinuoso, da estrione, li indicò a tutti. «Li invito allora a raggiungermi su questo proscenio, poiché oggi Mastro Shakespeare deve inchinarsi a chi gli ha rubato la scena». Lord Warwick sfiorò il gomito di Joseph. «Non resta che salire, altezza, e pensare che i prossimi gradini saranno quelli di St. James Palace». Joseph guardò di nuovo Philip. Non sarebbe andato solo. L'altro annuì controvoglia e si alzarono. Nel più assoluto silenzio raggiunsero Garrick, che li accolse con un elegante inchino e con un gesto lieve li invitò a prendere la parola. Joseph guardò quella marea di facce curiose e provò un disagio nuovo. Aveva parlato molte volte davanti all'assemblea della sua gente, aveva partecipato a concili e riunioni, ma si era sempre seduto in cerchio, tra pari. Non si era mai trovato solo di fronte, anzi contro, una tale folla sconosciuta. Più ci pensava, più il disagio aumentava. Il conte di Warwick, con indice e medio, mimò un omino che saliva le scale. «Che dicano qualcosa! In inglese! No, nella loro lingua! I tatuaggi! Vogliamo vederli! Fate una danza di guerra!» Uno spettatore si sporse oltre la balaustra per picchiare il bastone sulla testa di uno che stava di sotto e si sbracciava. Quello se ne accorse, parò il colpo e lo restituì. L'altro rispose. I vicini si appassionarono al duello e già qualcuno proponeva di scommettere se il tizio in alto sarebbe caduto di sotto oppure no. Arancia e tabacco ripresero a volare. Gli occhi di Warwick si fecero supplichevoli. Joseph trovò le parole. «Fratelli di Londra!» disse. Poi attese che il silenzio abbracciasse di nuovo il teatro reale e ripeté ancora. «Fratelli di Londra! Molti tra voi si chiedono cosa ha spinto Thayendanegea, lega due bastoni, e suo fratello Ronaterionte, tiene fede, messaggeri del popolo della Selce e della lunga casa delle sei nazioni, a varcare l'oceano per arrivare fin qui. Qualcuno dice che la lite è tra le colonie americane e l'Inghilterra, qualcun altro sostiene che siamo qui per chiedere aiuto al re contro chi ruba le nostre terre. Tutto questo è vero, ma non sminuisce la curiosità e l'ammirazione che proviamo per la vostra città, grande e magnifica, ricca di cose che gli americani possono soltanto immaginare. Una curiosità più forte la proviamo solo per William Shakespeare e in particolare per Romeo e Giulietta. Se i rapporti tra l'uomo e la donna qui in Inghilterra sono come Shakespeare li descrive, ci chiediamo come sia possibile che Londra abbia 1 milione di abitanti. Se il nostro popolo adottasse lo stesso tipo di corteggiamento, scomparirebbe nel giro di poche stagioni. Applausi. Il pubblico rideva, fischiava, lanciava in aria fuochi artificiali di bucce d'arancia. I due indiani si avviarono verso la scaletta. Gli spettatori si quietarono nello strano silenzio di chi non sa cosa attendersi. Il corifeo guardò Garrick con aria sperduta. Doveva abbandonare la scena e chiamare il sipario o riprendere da dove si era interrotto? Ma dopo un elegante inchino al pubblico, il grande Garrick si ritirò. Il capocoro rimase impalato in mezzo al palco, senza sapere che fare. Joseph Brent stava già scendendo la scaletta per tornare in platea. Dietro di lui, Philip si accorse dell'imbarazzo del corifeo. Si avvicinò e mormorò: «Gli spaventosi casi del loro segnato amore». In prima fila, alcune bocche tornarono a spalancarsi. Senza concedersi sorpresa, il corifeo riattaccò. «Gli spaventosi casi del loro segnato amore e il proseguire della collera dei genitori, che nulla poté rimuovere a parte la morte dei figli, è quanto vi rappresenteremo per 2 ore su questo palcoscenico e se vorrete ascoltare con pazienza, sopperiremo col mestiere a quel che mancherà». In platea, incapace di contenere l'emozione, il conte di Warwick si agitava sulla panca. Stringeva mani a destra e a sinistra e pure dietro, poi abbracciava Joseph per accertarsi che fosse vero, in carne e ossa. «Questa città non sarà più la stessa quando ve ne sarete andati», disse infine con malinconia. «Dirò di più, non sarà lo stesso nemmeno Shakespeare». Prese un tono supplichevole e proseguì. Dovete promettermi che non lascerete Londra prima dell'estate. Dovete promettermelo o farò tutto quanto in mio potere per rimandare la vostra udienza con Re Giorgio. Joseph promise, poi fissò il palco con aria rapita e il conte, giunte le mani sul pomo del bastone, si sforzò di tacere fino alla fine della scena. Su una delle logge centrali un gruppo di gentiluomini fingeva di prestare attenzione all'opera. Le voci erano sussurri, i volti in ombra. Gli abiti eleganti dallo stile sobrio denotavano l'appartenenza alla classe degli affaristi della City. Sedevano accostati, ma era evidente che uno di loro era il centro di gravità del gruppo. Le teste degli altri appena reclinate convergevano sulla sua figura e commenti sibilati erano tutti nella sua direzione. «Quel buffone di Warwick doveva rifilarci perfino gli indiani. La prossima volta toccherà ai cannibali dell'Africa». Da una scatolina d'argento l'uomo pizzicò una presa di tabacco e la fiutò, nettandosi poi le radici con un fazzoletto ricamato. «I giornali non parlano d'altro», commentò l'ombra accanto. «Davvero sperano di portare in auge i selvaggi?» commentò un terzo, in tono sprezzante. «Vogliono farci digerire l'idea che la corona affida a questi primitivi la difesa dei propri interessi in America», aggiunse quello che non aveva ancora parlato. L'uomo al centro della fila sniffò ancora la polvere gialla, quindi richiuse la scatolina e la ripose in tasca, lanciando un'occhiata distratta di sotto. Sul palco era in corso il duello tra Mercuzio e Tebaldo, con colpi secchi delle spade di legno. Qualcuno tra il pubblico faceva il tifo, come non si sapesse chi avrebbe già vinto. «Il problema, mio caro Cavendish», riprese l'uomo al centro, senza smettere di guardare giù, «è che gli interessi della corona divergono sempre più dai nostri. Ogni giorno che passa, questo conflitto con i coloniali ci costa migliaia di sterline. La metà dei nostri rapporti d'affari è saltata. I porti americani vengono chiusi, le merci sequestrate o buttate a mare. L'esercito doveva ristabilire l'ordine in poche settimane e sono già passati più di 6 mesi. «Avrebbero dovuto dar retta a Burke. In tutta la Camera è l'unico con un po' di buonsenso. Aveva previsto ogni cosa». «Nonostante la stima per lui, signor Paul, il governo è di tutt'altro avviso». «Allora dovremmo cambiare governo». «Non prima che abbia perso la guerra», sentenziò il gentiluomo seduto nel mezzo. «Credete davvero che il nostro esercito possa essere sconfitto?» «Non mi intendo di faccende militari, signori. Di sicuro non può essere sconfitto il progresso. Stiamo facendo una guerra per garantire alla Compagnia delle Indie di smaltire in America i suoi stoccaggi di tè. Vi rendete conto che in questo modo non ne andrà venduta nemmeno un'oncia? Anzi, mi dicono che per protesta gli americani hanno preso l'abitudine di bere caffè. Questo succede quando si forza la mano al mercato. Quante volte ho ripetuto al ministro del commercio che il mercato deve essere libero, libero per Dio, domande e offerta, tutti i blasoni del mondo non fanno un buon contabile». «Avete saputo che alla buon'ora il signor Adam Smith si è risolto a dare alle stampe le sue teorie?» «Grazie a Dio non sembrerò più un predicatore nel deserto, quello è uno scienziato che si rispetti». «Dobbiamo senz'altro finanziare la distribuzione del testo a Londra». «Centinaia, migliaia di copie!» L'uomo indicò la testa di Warwick in prima fila. «E nel frattempo, abbozzare con questi vecchi parassiti? Qualcuno dovrebbe rompergli le uova nel paniere». I sussurri vennero coperti dal boato del pubblico per la morte di Mercuzio. Quando il fragore cessò, l'uomo seduto al centro riprese a parlare. «Portano qui un paio di indiani ben educati che conoscono Shakespeare e pretendono che ci caschiamo tutti quanti. Ridicolo!» «Inverecondo!» aggiunse l'ombra seduta a destra. «Miserabile!» commentò quella di sinistra. «Squallido!» concluse l'ultimo personaggio, dopo un attimo di esitazione. L'uomo al centro si alzò. «Oggi gli attori sono fiacchi. Il vecchio Garrick potrebbe tenere tutti i ruoli e fare una figura migliore». «Anche Giulietta!» scherzò uno degli altri. «Certo, forse lo stesso Shakespeare la impersonò». «Tempi cupi!» ghignò l'altro. «Non peggiori di questi!» ribatté serio il gentiluomo. «I nostri compatrioti americani chiedono libertà di commercio e il governo non trova di meglio che fraternizzare con gli scotennatori. Il mondo va alla rovescia». Le ombre scivolarono via piano, lasciando la loggia vuota, come una bocca nera spalancata in faccia al palcoscenico.